faccio, ma sono andata qui, ma mi arriva per primo il microfono. Non so, beh, ciao a tutti, grazie di questa possibilità qua. Io sono Sandro, dell'azienda agricola Cirenaica, qui a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, nel parco del Ticino, come anche Lele. La nostra esperienza sul mais da polenta è partita molti anni fa e circa 6 anni fa abbiamo affiancato, oltre all'ibrido commerciale normale, insomma, di classificazione moderna che c'è in commercio, abbiamo voluto riscoprire, perché rompendo un po' le scatole ad un piccolo e vecchietto agricoltore che tra l'altro l'anno scorso è venuto a mancare, abbiamo rubato, diciamo, un 5-6 pannocchie di un rostato che nella nostra zona è, lo chiamano il Dengchen, perché è proprio come classico, come tutti i rostati, ha la punta sopra il chicco a forma di uncino che punge un attimino. E una varietà che si usava a seminare fino agli anni 40, insomma 50, dopodiché con la modernizzazione dell'agricoltura si è andato a perdere questo mais qui. Perché immaginatevi la difficoltà di coltivazione e ancora peggio la resa di questo mais. Però noi da queste 4 pannocchie qua in 2 anni siamo riusciti ad ottenere una discreta quantitativa e adesso seminiamo quasi 1 ettaro di questo mais qua. È un mais piccolino che si adatta abbastanza bene, non ama i terreni molto pesanti e neanche tantissimo concimati, perché altrimenti crolla di più, insomma, perché lui tende a spingere la produzione ma dopo non ce la fa come pianta. La caratteristica principale di questo mais qui, 2 caratteristiche principali. Una è che sul quantitativo di resa è bassissima, cioè 2 numeri per buttarvi lì, un ibrido commerciale, uso zootecnico, le più grosse aziende che spingono sulla concimazione che arrivano a medie intorno ai 140-160 quintali all'ettaro, degli ibridi per polenta commerciali circa la metà, 70-80 quintali all'ettaro, e questo mais qui, se ti va bene l'anno, come quest'anno è andato benissimo, l'anno scorso è stato un disastro, un fallimento, ma quest'anno è andato benissimo, siamo neanche 20 quintali. Per cui vi rendete conto che la redditività di 1 ettaro di terreno seminato con questo mais qua è praticamente 0. No? Però ha delle caratteristiche nutrizionali eccellenti. Primo, si parte da un presupposto che ha un contenuto di triptofano leggero, c'è, perché normalmente nel mais non ce n'è, però in questo mais qui ce n'è, delle tracce ce ne sono. Questo vuol dire che durante la cottura resta più dolce, per cui si riesce anche a far cuocere un pochino meno, cioè anche 40 minuti si riesce a farlo cuocere, si ha una dolcezza della polenta molto molto buona. In più è completamente, il tutolo come anche altri mais, ma però è completamente bianco e ha la caratteristica che quando si macina si scaglia, cioè proprio scagliolo in italiano, che si chiama scagliolo, proprio perché macinandola si scaglia e tutta la buletta che resta attaccata durante la trebbiatura viene via ed è facilmente separabile quando poi scende dal mulino. Naturalmente parliamo di macinatura a pietra, era sottointeso, io forse mi scuso, ma però è sottointeso la macinatura a pietra, naturalmente per mantenere il germe vitale e integrale all'interno della stessa farina. Per cui questa caratteristica qui rende pregiata questa farina, come anche altre farine. Però ecco, la riscoperta di questo mais qua, che adesso io nella mia zona sto cercando di sensibilizzare altri agricoltori a inserirlo nella rotazione, almeno di, non dico tanto, ma almeno 0,5 ettaro, 1 ettaro nelle proprie aziende, per proprio valorizzarlo. Ho già rotto le scatole un attimino all'amministrazione comunale, in modo di dire, orca, siamo in 2, siamo in 4, siamo in 5 aziende, dacci una mano a valorizzare questo prodotto, no? Cioè, parliamo tutte di deco, poi quando c'è la possibilità i comuni restano addormentati e restano al palo. No? Aspettano sempre che poi l'amministrazione più alta di loro, la provincia, la regione, lo Stato, faccia qualche cosa. Però qui proprio nasce, come giustamente dicevano prima, il fatto di dobbiamo essere dei coproduttori come consumatori, ma in tutti i settori questo, perché si favorisce l'utilizzo di questo mais qui. Questo qui poi sull'ambiente è un toccasana, nel senso che non ha bisogno di grossissime concimazioni, anzi, non ne ha bisogno. Noi seminiamo, a parte noi seminiamo magari questo mais qui dopo il pisello proteico, di conseguenza nella rotazione noi abbiamo l'azoto che assorbe il pisello proteico dall'atmosfera, lo camera nel terreno, che per lui è già fin troppo. Questo vuol dire non distribuire concimi di nessun tipo, neanche quelli organici, se mettiamo giù, perché l'azoto presente naturalmente nel terreno e l'altra frazione di fosforo e potassio è neanche più che sufficiente. Questo vuol dire che anche l'inquinamento ambientale è praticamente ridotto. Un altro aspetto importante che è l'etica del lavoro, nel senso che ci va molto lavoro, naturalmente poi costa di più perché la manodopera è quella che incide di più, ma questo vuol dire creare occupazione. Tante volte noi ce ne dimentichiamo su un prodotto cosa ci sta dietro come lavoro, e per cui anche l'etica dell'occupazione verso la società è molto importante, soprattutto in questo periodo qua un po' di stanchezza economica, insomma, ecco. Altre cose magari mi chiederete voi, adesso passo la parola agli altri. Grazie.